Speciale, la politica nel tunnel. La politica nel tunnel, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. E da Elisabetta Fiorito, ascoltiamo subito il segretario PD Pierluigi Bersani. Altro, poco fa è stato un giro di ricognizione con forze sociali, forze politiche che vi assicuro ha dato un quadro molto preciso, molto pertinente, realistico della situazione sia economica e sociale sia politica. E quindi adesso, dopo qualche ora di riflessione, entro sera mi recherò al Quirinale per riferire le mie valutazioni. Ecco, abbiamo sentito il segretario PD Pierluigi Bersani, un po' era disturbato, ma è come disturbato in questo momento la politica italiana, perché il segretario PD sta per salire al Quirinale a riferire quanto è stato detto durante le consultazioni qui a Montecitorio. Ricordiamo, noi vi stiamo parlando dalla nostra postazione a Montecitorio. Ormai è chiaro che il segretario PD non ha i numeri al Senato, alcune voci parlano della richiesta di più tempo, ma a quanto pare il capo dello Stato Giorgio Napolitano potrebbe invece pensare di affidare l'incarico ad un'altra personalità. Si parla in queste ore di Fabrizio Saccomanni, attuale direttore generale di Banca Italia, magari già da domani, per evitare turbolenze nei mercati. Da Sele invece Gennaro Migliore chiede che Bersani vada in Parlamento. Sentiamo Migliore. Noi riteniamo, e lo diciamo con il rispetto dovuto all'alta funzione del Presidente della Repubblica, che sia possibile andare ancora a verificare nelle aule quale sia il consenso rispetto alla proposta che è stata fatta e che non è stata mai giustamente cambiata rispetto ad esigenze impronunciabili e improponibili. Ed è per questo motivo che voglio anche dire che noi saremmo contrari comunque a qualsiasi, non solo nome, ma a qualsiasi forma di governo che contempli nella maggioranza politica il PDL e Berlusconi. Siamo stati eletti perché ci fosse un cambiamento e perché Berlusconi non ritornasse al centro della vita politica. Le dichiarazioni di responsabilità, cosiddetta, tra virgolette, ma di responsabili Berlusconi se ne intende perché in altre stagioni li ha utilizzati a piene mani, per quanto ci riguarda sono inaccettabili. E queste dunque le parole di Gennaro Migliore, di Sinistra, Ecologia e Libertà, dopo l'incontro, ruolo importante. Quello del Movimento 5 Stelle, bisogna vedere cosa faranno proprio i 5 Stelle nella crisi attuale. Oggi c'è stata una proposta shock da parte del leader Beppe Grillo, andare avanti con questo governo. Ricordiamo che il premier in carica per gli affari correnti è Mario Monti, e magari fare la legge elettorale, perché questa è la tesi di Grillo, si può legiferare senza governo. Ma su questo punto e sulla situazione politica in generale abbiamo sentito il senatore 5 Stelle Sergio Puglia. Già si sapeva precedentemente che era un compito molto difficile, e già si sapeva precedentemente che il Movimento 5 Stelle ha quel nome, quindi Bersani, Premier, non avrebbe assolutamente dato la fiducia. Per cui quando abbiamo fatto il nostro intervento insieme al PD è stato, ma giustamente come deve essere, proprio un incontro di cortesia e istituzionale, formale, nel rispetto proprio dell'altro. Poiché siamo tutti convinti che il Paese non possa aspettare, una strada va comunque percorsa, la vostra qual è? Noi ovviamente già abbiamo precedentemente specificato che noi riteniamo di avere le carte in regola per proporre un nostro governo. D'altra parte, almeno le voci che circolano o comunque che abbiamo percepito, è che probabilmente non sarà così, non ci verrà accolta la nostra richiesta, per cui come era normale staremo all'opposizione. Beppe Grillo ha detto, in fin dei conti non c'è la necessità che ci sia comunque un nuovo Premier, come a fare capire che le riforme di cui si parla possono anche essere fatte direttamente dal Parlamento? Già così come è strutturata la Costituzione e i regolamenti, il Parlamento dovrebbe già, senza null'altro pretendere da nessuno, già riuscire a legiferare anche in maniera veloce. Le faccio un nome, Giuliano Amato, circola in queste ore. Giuliano Amato. No, come governo del Presidente. Sì, è un vecchio nome, quindi sarebbe opportuno cambiare veramente il passo personalmente e penso anche gli altri del gruppo 5 Stelle. Questo nome ci fa storcere un po' il naso. Storcere un po' il naso, ma poi ricordiamo Giuliano Amato fu quello che fece il prelievo del 6 per 1000 sui conti correnti, quello che sta succedendo in maggior rilievo in questi giorni a Cipro. Grillo poi attacca l'Unità che oggi aveva presupposto un patto Berlusconi-Grillo per fermare il cambiamento, questo era il titolo, ha detto che vuole votare l'ineleggibilità di Berlusconi, il conflitto di interessi, il riassetto delle frequenze TV e per il leader del Movimento 5 Stelle il giornale del PD fa propaganda con i soldi pubblici è il rosso e nel 2011 avrebbe ottenuto contributi pubblici per 3,7 milioni di euro. 5 Stelle che sono riuniti qui a Montecitorio per trattare anche il caso del capogruppo Roberta Lombardi, insomma c'è malumore per la gestione del gruppo dei 5 Stelle qui alla Camera. E sempre qui a Montecitorio sono partiti i tagli per questori, vicepresidenti e segretari, via gli appartamenti, auto blu limitate, verranno utilizzate solo a Roma le 10 vetture a disposizione della Camera dei Deputati, malgrado il Movimento 5 Stelle aveva chiesto di farla utilizzare solo alla Presidente Laura Boldrini, proposta che non è passata nell'ufficio di presidenza di oggi. Nel Popolo della Libertà si riflette sul da farsi dopo il probabile fallimento del tentativo Bersani, Silvio Berlusconi si è proposto come candidato al Quirinale oppure lancia Gianni Letta, una provocazione forse, ma sentiamo cosa ci ha detto Nunzia Di Girolamo. Noi abbiamo tentato di trovare un'intesa nell'interesse del Paese sui temi che ci interessano, di cui abbiamo discusso in campagna elettorale e che sono quelli che preoccupano i nostri cittadini italiani. Ma Bersani evidentemente non riesce a cogliere la vera difficoltà in cui il Paese in questi giorni, in quest'ultimo periodo si trova e pensando solo a se stessi andrà dal Capo dello Stato senza i numeri. Sullo sfondo però c'è l'elezione del Capo dello Stato, Berlusconi ha detto beh mi candido io oppure Gianni Letta, sono due nomi che il centrosinistra non potrebbe accettare. Ma potrebbe accettare un candidato moderato, terzo, che rappresenti tutti, dai grillini passando per il Partito Democratico fino a noi del Popolo della Libertà e ci auguriamo che quella sia la scelta, che non venga fatta una scelta senza metterli in discussione, analoga a quella fatta al Senato o alla Camera, dove sono state scelte persone assolutamente di derivazione del Partito Democratico di Sella. Credo che la scelta, senza dover... ovviamente il Partito Democratico non voterà né Gianni Letta né Berlusconi, ma esistono altri nomi. Mi sembra che anche rispetto ad altri nomi non ci sia questa apertura. Grillo ha detto, ma il Parlamento può lavorare, può legiferare anche senza governo. Ma Grillo veramente fino a quando era un comico mi faceva anche ridere, adesso inizia a farmi veramente piangere. E quindi non basta la contestazione pura e semplice. Mi auguro che questi ragazzi che sono arrivati qui a seguito di qualcosa che forse è anche più grande di loro si rendano conto della grande responsabilità che hanno. Senta, ma il governo si riuscirà a fare? E con chi? Questa è la grande speranza per il Paese. Alla fine credo che Napolitano dovrà fare il suo governo. Quindi il governo del Presidente, il famoso governo del Presidente. Visto che è l'unico saggio a sinistra. E a proposito del governo del Presidente, ultimo nome che sta circolando in questi minuti è quello del direttore, l'attuale direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Sacco Manni. Ma cambiamo argomento, non si placano ancora le polemiche per le espressioni forti che sono usate dai politici, ricordiamo la ultima, quella di Battiato. Allora tu, Elisabetta, hai intervistato Fabiola Giuliani che insegna filosofia del linguaggio alla Sapienza di Roma e neodeputata del Partito Democratico. Questo tipo di linguaggio che scivola fino alla volgarità, all'ignominia, eccetera, arriva nei momenti di maggiore crisi della politica, quando si tende appunto ad azzerare la dimensione dell'argomentazione, dei contenuti, anzi il tono e la parola forte, eccetera, eccetera, arriva per coprire un vuoto di contenuti, un vuoto di proposte e di argomentazioni. E questo storicamente in Italia quando è venuto, prima di questa fase? Comincia col fascismo, cioè comincia con la crisi dell'istituzione parlamentare. Soprattutto il linguaggio diventa monologico, ossia si annulla la presenza dell'avversario coperto di insulti, improperi, eccetera, per far uscire soltanto la propria voce. E quindi Beppe Grillo potrebbe avere un linguaggio simile a quello del Mussolini durante la marcia per Roma? Assolutamente sì. Da questo punto di vista non c'è dubbio, c'è un continuo, ma anche un esplicito richiamarsi, una richiesta d'adesione emotiva che annulla le capacità di argomentazione e le capacità di ragionamento, quello che gli antichi chiamavano il logos. L'insulto è la negazione del logos. Quello che però ci sorprende è che anche Franco Battiato, il divino, no? A un certo punto ha descritto le donne delle scorse legislature come donne, diciamo così, di facili costumi. Noi usiamo un'espressione più delicata. Prendiamo proprio le distanze, quello che ha detto di una gravità inaudita, non solo perché colpisce il Parlamento e i parlamentari, ma perché c'è uno scivolamento dentro un senso comune maschilista, dobbiamo dirlo purtroppo molto trasversale, che fa sempre breccia. Insomma, un'attenzione maggiore al linguaggio serve anche a tutelare la nostra democrazia. Assolutamente, la democrazia comincia dalle parole. E mentre per Luigi Bersani si recherà al Quirinale, Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, sarà ospite d'onore di Maria De Filippi nella trasmissione Amici. Beh, ci viene un po' da ridere, Vincenzo. Prendiamola così in queste ore tragiche e serie per il nostro governo e il nostro paese. Un saluto dalla postazione di Montecitorio, da Elisabetta Fiorito. E da Vincenzo Miglietta.